24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Non ci sono nemici del governo e qui dentro non ci sono volatili notturni, almeno apparentemente. Ci sono opinioni talvolta diverse e che provano con passione, con pacatezza, a convincere altri delle proprie ragioni. Avete capito? Come dice Cooperlo, i gufi, non ci sono volatili notturni. Magari c'erano volatili per diabetici, eh? Utilizzando una vecchia frase di Lino Benfi, magari c'erano volatili per diabetici. Adesso per te saranno volatili per diabetici. Ma è un quiz? Saranno cazzi veri! Ecco, appunto, ma volatili notturni, cioè gufi, no, non se ne sono visti per Cooperlo. Questo alla direzione del PD. Allora, le 6:33 minuti, siamo qui a parlare con Miriam Lucchetti, che entra in onda. Che vuoi dire qualcosa anche al microfono? Non lo so, mi consegna una lista di files. Saluto Miriam Lucchetti per l'appunto. Saluto Pietro La Corte oggi in regia, direttamente dalla sua Sicilia. È qui. E che dire? Apriamo subito il Parlamento, dai, perché oggi, vabbè, ce n'è da dire. Ce n'è da dire, adesso, ma chissà quando. Vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Grazie. Allora, cara direttorissima Aurora Lussana. Buongiorno Milan. Hai visto che non c'erano volatili notturni? No. Sai che io ho già detto la mia sull'ossessione ornitologica della sinistra italiana, quindi non infieriamo sul povero Cooperlo. Com'è che lo pronuncia la bergamasca? Cooperlo. No, ma anche nei palazzi in transatlantico, ho sentito Cooperlo. Non indaghiamo. Vabbè. È stata una sceneggiata, Milan, come titolo oggi, giustamente, la Padania. Non napoletana, fiorentina. Attenzione, caro Vincino, buongiorno. Eccoci. Eccolo qua, il titolo è della Padania. Come giustamente titola la Padania, dice no. Il direttore della Padania. Dice. È stata una festa nazionale. Noi lo ricorderemo come il giorno della speranza. 29 settembre, il giorno della speranza. Che non è Roberto Speranza. Quando ci ridaranno oscuri governi, orribili governi di serie C, con oscuri personaggi che faranno affari. Oh. Noi ricorderemo questo, la cavalcata del governo, esattamente quei pochi mesi del governo Renzi, e il 29 settembre quando? Come pochi? Quando contro il meraviglioso discorso della speranza A e B, cioè andata e poi ritorno, abbiamo visto lo squallido D'Alema, c'era una cosa, guarda, pastiche, c'è PPP col suo così l'accentino e spocchietta da No, fermati. A me di D'Alema ha colpito tantissimo il colore dei capelli. Ah, questo veramente. Ma il colore dell'anima è quello che fece. Comunque, effettivamente. È proprio. No, fermati. Effettivamente, attenzione Vincino, mi segnala Miriam Lucchetti che ieri era anche il compleanno di Silvio Berlusconi, era anche il compleanno di Pierluigi Bersani, perché compiono gli anni lo stesso giorno. E niente, è così. Perché è stata una sceneggiata, Aurora? Scusa, Perché... Questi hanno fatto finta così di fare un po' di resistenza, fanno sempre quelli che rimangono sulle montagne a difendersi dal nemico invasore, e poi niente, li ha spianati tutti, Renzi si va avanti, fa quello che vuole, comanda lui, E così ti ricordi la svolta di Salerno? Ma c'hai i numeri, la svolta meravigliosa la svolta. Certo, ma c'hai i numeri. Bravo Vincino. No, e cos'era? Eravamo nel 44. C'era Togliatti, il PC, si decise l'accordo con la monarchia di rinunciare alla rivoluzione permanente. E adesso c'è la svolta del 29 settembre, come ci racconta Vincino. La svolta del 29 settembre. E allora fecero l'accordo con la monarchia, con la DC, adesso l'hanno fatto con Berlusca, sono posti ideologici, ormai è ufficiale, superato il tabù dell'articolo 18, adesso c'è il totem di Renzi, totem e tabù, torna sempre quelle robe lì. Sempre lì, e però sempre il tabù, sempre l'ossessione degli uccelli, e questo... Sì, sacro totem. Sacro totem, perché Vincino dice che hanno l'ossessione per gli uccelli, l'ossessione... Ce n'è uno peggio dell'altro, non so, l'ignorante Fassina, ma è una cosa, no, guarda, sembrava uno di Latina con il suo accento. Ma poveri di Latina, ci ascoltano tantissimi da Latina, vabbè, ma troviamo quelli di Latina, dato degli ignoranti, ma Fassina no, quelli di Latina no, assolutamente no, cioè, ma se uno arriva in direzione e parla con l'accento del capo di Palermo, no, che invece o del Casa, che invece di dire la pignata dicono la pigneta, no, come io metto a ridere, no? Vabbè, a me una volta la bambina mi disse: ma perché al capo la pignata la chiamano la pigneta? E io non sapevo cosa rispondere. Non sapevi cosa rispondere, vabbè. Allora, comunque, D'Alema è stato uno dei protagonisti, ma ragazzi, cioè, con quel suo livore, pare che Renzi finita, abbia detto: avete visto D'Alema come è livoroso proprio per le nomine mancate in Unione Europea? Che errore avrebbe fatto a nominare D'Alema? Ma tu un giudizio, Vincino, un giudizio storico su D'Alema, tu ce l'hai mai dato, Vincino? Un giudizio storico. Un disastro di quelli epocali. Figurarsi. Epocali, ecco. Un piccolo dirigente della FIGC che doveva rimanere dai quadri intermedi, che a un certo punto causa morte di Berlinguer, rotto di quell'altro, cosa di quell'altro. Ferma, capito? Ecco. Di whisky di coso del segretario, di come si chiama, Giorgetto, sì. Lui e coso, Veltroni e quell'altro fanno... Vabbè, adesso Veltroni è sposa Cluny, si occupa... Vettore è quello si buono, occupa di altro. È quello cattivo, questo. Eccolo qua, Lussana, hai capito? Ma no, io avevo un insegnante normalista che si era laureata la normale, ci diceva solo: ma insomma, diffidate di D'Alema, non si è mai laureato la normale. Però mi era più simpatico del Renzi, era più anche con la Lega, Renzi. Sempre avuto, guarda che D'Alema con la Lega ha sempre avuto un atteggiamento molto più intelligentemente critico, se vuoi, e era anche un po' incuriosito dalla Lega, invece Renzi c'ha questa preclusione, probabilmente ha un tabù nei confronti della Lega, tutto chi vuole bene la Lega è certo, chi vuole bene alla Lega è bravo, chi pensa alla Catalogna, ma mica perché lo dice, cioè, come dire, non è che guardo tutto il mondo con lei c'ha gli occhiali, c'ha gli occhiali verdi, c'ha i vestiti verdi, c'ha gli occhi verdi, c'ha gli occhi verdi. Però un leader lo capisci da come si atteggia con le opposizioni, punto. Eccolo, comunque sentitelo, dai, D'Alema, sentiamo D'Alema il livoroso D'Alema, con i capelli bianchissimi. Io penso che con sincero apprezzamento per l'oratoria, che sentite l'ironia, è un impianto di governo destinato a produrre scarsissimi effetti. Cioè, rispetto con grande apprezzamento dell'oratoria, come dire, chiacchierone, Renzi. È abituato al 50, quando c'era ancora Stalin, ai comitati centrali del PC con Togliatti, che suo padre gli raccontava, sai, andava così, andava quell'altro. Senti ancora D'Alema, bisogna sapere i fatti, sapere le cose. Penso che il dibattito politico, soprattutto quando si tratta del dibattito di chi ha la responsabilità del governare il paese, debba mantenere un forte aggancio alla realtà. Io potrei fare una lunghissima elencazione di affermazioni prive di fondamento, ma veramente non è obbligatorio sapere i fatti, ma sarebbe fortemente consigliabile. Cioè, capite, è la, proprio la classica ironia di D'Alema, no? Sarebbe fortemente consigliato, debba, questi congiuntivi che lui sottolinea, e vabbè, così. Li ho spianati, così pare che Renzi abbia detto li ho spianati alla fine. Però in realtà guardate che al Senato ballano 7 voti, 7 voti. No, no, no, aspetta, Aurora, che dici? Abbiamo abolito il Senato. Ma che è Mussolini? Ma dai. Aurora, che dici? Ce li ha sti voti? Allora, sulla carta il Jobs Act è a rischio, in realtà poi lì, sai, ci sono anche tanti piccoli gruppi che si muovono e si accodano sulla scorta delle esigenze del Premier, ma no, ma va avanti, ma dove vuoi che vada, i senatori mica rischiano di andare a casa, dai, non siamo neanche 2 anni della legislatura. Non vanno a casa, vabbè. Intanto però c'è una domanda stringente. Prima vorrei il parere politico di Vincino. La domanda stringente è questa: Aurora, ci vai al matrimonio della Unzi che era il 10 ottobre a Bergamo? No, però così no, è qualcuno che mi conosce, allora questo qua che mi è andato quella roba. Perché? No, perché ma perché sei stata invitata? Mi piace molto Eros Ramazzotti, mi piace molto meno Michel Hunziker. No, però non sta più con Eros Ramazzotti. Appunto, ti ho detto tutto. Si sta dicendo che ti sta un po' sulle palle. No, ma poi mi pare che celebri il sindaco Ligori, il marito lì della Parodi, quella che va in televisione. Il sindaco di Bergamo, sì, certo. Sì, il marito di quella che c'è su Rai 1. Il marito di Cristina Parodi, sì, vabbè, non è un'offesa. Assolutamente no. Non ci vai. No. Vabbè, torniamo alle questioni politiche. Aspetta, Vincino. Sulla Hunziker, volevo dire una cosa. Sulla Hunziker, quando mettono la Hunziker in copertina vendono 150.000 copie in più dalle parte perché. Di Cairo Editore. Cairo Editore, direttamente, no, il suo sotto uno. Cairo Editore, che ricordiamo è l'editore. Che per ora non è più in edicola, sarà in mezzo in libreria. Non ce la fa tutte le volte. Cairo Editore, che è l'editore. Ma è la Hunziker che me l'ha detto. Devi dire, Vincino, che è l'editore più importante del mondo. Allora, torniamo alle questioni politiche. Vincino, i voti ce li ha Renzi al Senato o no? Assolutamente sì. Ma ne ha 7 in più. Oggi il Corriere li conta. Allora, il Corriere ormai su Renzi conta, cioè da qualche giorno in poi non ho capito perché poi non ce l'hanno spiegata. Vabbè, adesso non è che io si inventano i numeri. Alle riunioni di redazione, però non me l'hanno spiegato bene questa storia qua, perché no, non siamo più per Renzi, no? Come non siamo più per Renzi. Comunque sia, lui al Senato, che peraltro ti ricordavo prima, è un Senato un po' delegittimato, diciamo, sì, dopo l'ultima riforma, no? Lui voti in più ne ha 40. No, 7, ne ha 200, guarda, voteranno tutti per questa cosa. Tutti. Passerà sicuramente, perché tutti quelli sanno che, se non è finiti. Sì, ma io, tra l'altro, io una cosa l'ho capita. Alla fine Renzi ha fatto questo compromesso a dire l'articolo 18 rimarrà per i licenziamenti disciplinari o discriminatori. Ma questo l'aveva detto sempre. Ma è come adesso! Sceglieranno i giudici. Non cambia granché. Allora, aspetta una cosa, scusa, adesso quelli che hanno rubato all'aeroporto di Milano sono stati tutti reincollati. Ho capito, Vincino. Ma il concetto, aveva detto togliamo il potere ai giudici di decidere. Un giudice, se c'è un buon avvocato, potrà dire che quello che ha rubato, difeso da un buon avvocato, è stato licenziato per motivi discriminatori. Non è vero. Ma non ci crederò mai. La giustizia in Italia sia così. Quelli che hanno rubato al comune di Taranto, che sono stati tutti condannati in terzo grado, sono stati tutti reintegrati. Capire, se tu lasci il principio giudice, se tu lasci il principio a un giudice, vuol dire che ci sarà. Ma lo devi dimostrare, ci sono degli avvocati, no? Se uno ha l'avvocato bravo, il principio è che un giudice che è terzo è fuori da un'azienda. Guarda, io conosco uno che aveva avvocati bravissimi. alcuni previsti, alcuni peggio, che ora non è più al Senato perché è stato fregato. Vabbè, è stato fregato. Dai, andiamo, aveva, allora dai. Andiamo al traffico, niente, non ci intendiamo. 24 mattino. Sarebbe bene che finalmente si facesse giustizia. Siccome a qualcuno si dice che la legge è uguale per tutti, ma io non ci credo. Comunque spero sempre bene. Questo paese di merda non mette niente, mette solo di affossarsi e basta, con dei politici di merda così, tolgono l'articolo del lavoro, le pensioni vanno avanti. L'unica cosa che non tolgono sono i suoi pensioni, i suoi stipendi d'oro. Caro furbaccione di un Milan, allora non ci prendi niente. Con Renzi ti dai addosso e non ci prendi perché tanto Renzi le rifà. Le riforme le fa tutte e così state tutti zitti, tutti zitti. Ciao Milan! Diventa più furbo! Io arrabbiato, e perché? Quando il Milan non vince è sempre grande festa. Alla prossima, Alessandro. Ma che vi darvi al culo tutti quanti? Ma quando è che il popolo decide di nuovo da chi essere governato? Abbiamo un'Italia di leoni governata da dei qua qua qua. Ciao caro Mila, abbiamo un bel cavallo di Troia nel Partito Democratico. Matteo Renzi con dentro Berlusconi, Verdini e compagnia bella che gli sussurrano tutto quello che deve fare. Volevo esprimere tutta la mia solidarietà, la mia commozione, la mia vicinanza ai dipendenti di Camera e Senato, che dovranno limitare le loro entrate a 240.000 euro annui. Ma come? Ma non ne prendevano molti di più? E adesso come faranno con 240.000 euro annui? È un'ingiustizia! Eccoci qua, è un'ingiustizia, vabbè, ma non tutti guadagnano 240.000 euro. Vabbè, Aurora, secondo te quindi è una sceneggiata questa di ieri? Perché ieri, no? Mentre sì, tutti gli occhi erano puntati su questa direzione farsa del PD, addirittura a noi è interessato molto di più quello che ha detto il Padoan. Sul il Padoan è molto molto preoccupato. Cosa ha detto il Padoan? Che servono 40 miliardi extra da dare all'Europa e tu ce li hai? Dobbiamo rispettare i Megonegot. Questa l'ha capita anche Vincino, Megonegot. Quindi noi siamo qui, no, a rincorrere Renzi, i suoi show mirabolanti, e la realtà è che lui adesso vi porterà su anche questo scalpo. Ma adesso sistemerà tutto colui, era tutto un uomo, voglio fare un quiz a Vincino, tu sai chi è Tony Iwobi? Tony Iwobi, assessore a Spirano, assolutamente sì. Nuovo responsabile immigrazione della Lega, particolare pelle nera. Tony, questa è una mossa che Salvini è. Cioè, è come ci si ripulisce la fedina penale, cara Aurora Lussana. Metto lì un bel... Lo conosco da una vita, ma Tony sì, Vai a qualunque festa della Lega, lo trovi, un ottimo assessore. Qui in Italia da una vita, penso, da 20-25 sì, anni. Vabbè, insomma, piccolo particolare, avete fatto responsabile immigrazione un nero. Non è che insomma può passare. È una persona che è arrivata in Italia in maniera irregolare e che, come tutti gli immigrati irregolari, sì, no, non tollera l'immigrazione clandestina irregolare e è ovviamente contrario all'operazione. Sì, lui è arrivato regolare, è laureato in informatica, oggi fa un'intervista Libero, dice: sono arrivato, ho chiesto i permessi, sono venuto dalla Nigeria. Purtroppo per lui credo che si sia sposato una bergamasca, che voglio dire. Cioè, è una condanna di per sé. Esatto, voglio dire, capisci Vincino, effettivamente. Però cosa ne pensi, caro Vincino, di fare responsabile immigrazione della Lega un nero, nigeriano? Allora, la forza della Lega sono siciliani, calabresi, napoletani che stanno a nord da 10, 20, 30 anni e che cercano di parlare in milanese, si sporgono la bocca. Dimmi una cosa in milanese, dai Vincino, di una frase in milanese, Vincino. Assolutamente no. Dai, di qualcosa. No, perché poi la realtà è ferire tutta cosa, assolutamente ma no. Ma dai, no, di una roba in milanese. No, posso dire una frase di Sciascia che diceva che dalla Cia quelli scemi vanno a Roma e quelli bravi vanno a Milano. Ma che, c'è, ma che c'entra? Io sono andata a Roma, che cosa ci vuoi fare? Eccomi qua, amo Milano, ci vorrei andare ad abitare, a stare qua, però sono fregato da questa città. Ma dai, ti facciamo lo scherzo della cadrega. Dai. Che è sto scherzo della cadrega? Non sono manco così la cadrega. La cadrega, proprio la cadrega, dai, la sedia. Lo so, l'ho capito, vabbè, ma non so da perché, come dire, da cosa deriva questa cosa. Ma no, era una roba di Aldo Giovanni Giacomo. Dal greco, dal latino, dal dove, dal celtico. Non lo so. Io molte parole chiave vengono dall'arabo, no? Per cui. Io sto non lo so da dove viene News, la cadrega, Racca News è un giornale, perché Racca ha bisogno di un giornale, giornalisti dobbiamo dove c'è l'ISIS, sì, ti vedo bene con la satira lì. No, allora, Rosana, sì, no vabbè, ma se viene a trovarmi gli insegno anche la differenza fra Scania e cadrega. No, questa non la so neanche. Scania neanch'io. Che? L'autocarro? Ah. Che è Scania? No. La Scania, dai, sei inteso sulla Scania, siediti sulla sedia. La cadrega? Lombarda bergamasca. Ah, comunque mi dice Miriam Lucchetti, caro Vincino, che cadrega viene da cattedra, quindi dal greco? Capito? Ah, voi dall'arabo e noi greci. Ma è straordinario il medio linguistico che c'è in Lombardia. Dai. Aurora, siamo alla ricetta, dai, devi dirci la ricetta, Aurora. Sì, allora, domenica sono andata a Domaso, su Alto Lago di Como, perché c'era una straordinaria commemorazione di Gianfranco Miglio. E lì mi hanno regalato i misoltini. E quindi tutta settimana che mangio polenta e misoltina. Cioè? Oh mamma, non so neanche cos'è il misoltino. È il pesce essiccato di lago. Vabbè, cioè, però ragazzi. No, vabbè, ho capito. Ti sono crollato sulla il misultin. Anche Miriam ha guardato, non mi rivolgerà la parola. No, è possibile, però c'è anche una canzone, Pulente Misultin, del Davide Van der Frost, mettetela su. Ostrega. Culinaria tipica del lago di Como. Vincino, tu ascolta. Tu lo sapevi il misultin cos'era? Assolutamente no. No, ecco, mi consola. 1, 2, 3. Adesso poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:18 minuti, siamo pronti a leggere i giornali. Vi ricordo prima gli ospiti, avremo tra un'ora esatta, le 8:15, minuto più minuto meno, il sindaco più ricercato dal punto di vista mediatico in questi giorni, Luigi De Magistris, il sindaco di Napoli, chissà ancora per quanto, dopo la condanna in primo grado che ha subito, ma lui dice io non mollo. Alle 8:15 il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, e poi parleremo di terrorismo con l'allarme che è stato lanciato ieri. Una cinquantina di jihadisti sono passati per l'Italia. Ne parleremo dalle 8:30. Questo però dopo. Ora andiamo a sfogliare i giornali. È martedì 30 settembre, dunque l'ultimo giorno di settembre, mi risulta, sì? 30 giorni a settembre, sì, è quella roba lì, vabbè. È l'ultimo giorno di settembre, allora i titoli intanto sono quasi tutti dedicati alla direzione del PD ieri, al dibattito sulla riforma del lavoro. Il Sole 24 Ore apre così: Jobs Act, l'articolo 18 rimane nei licenziamenti disciplinari. Per il Corriere della Sera, basta scorribande sulla Consulta, questo invece è il titolo di prima pagina, perché c'è un'intervista al presidente della Corte Costituzionale. Articolo 18, vince Renzi, così Repubblica. La Stampa, articolo 18, via libera a Renzi. Il Messaggero, articolo 18, sia Renzi, sinistra in tilt. Per il Fatto Quotidiano, Renzi sfascia il PD e vince Bersani, usa il metodo boffo. Libero, il PD abbaia ma non morde, mentre il Giornale titola così, morte del PD in diretta TV. Il titolo invece del Manifesto mette la foto di Matteo Renzi e il titolo di prima pagina è La voce del padrone. Chi e perché licenziare lo decide l'imprenditore. Via l'articolo 18. Lavoro rovente nel PD, Renzi sfida i sindacati. Questa invece è l'apertura di Avvenire. Dunque vedete, a parte il Corriere

A parte che dice non andrò mai, voterò Forza Italia, la mia identità è di sinistra, è chiara e forte. Ma ho parlato con Berlusconi, conferma, ho parlato a lungo con la Pascale, una donna coraggiosa, una donna che ha un forte ascendente su Berlusconi. Mentre sulla questione di sinistra, perché si dice ma non dovrebbero essere battaglie di sinistra queste, ma guardi, io farei subito l'invito anche ad Agnese Renzi, ma qualcuno di molto affidabile mi dice che sia proprio lei, la First Lady, a frenare il Premier sui diritti. Come dire che è bigotta, lo è sicuramente, è una cattolica osservante. Così Vladimir Luxuria su Agnese Renzi. Vabbè, sappiate che Vanity Fair Francia ha messo il nostro Presidente del Consiglio tra i 30 best dressed al mondo, cioè i 30 meglio vestiti al mondo. Matteo Renzi, oggi Selvaggia Lucarelli, fa uno spassosissimo articolo a dire non ci posso credere. Lui, quello che sbaglia i bottoni con la Merkel. Lui, quello che mette i giubbetti alla Fonzi. Lui, quello che andò vestito da studente alla Ruota della Fortuna come un vero nerd, è un'offesa al nostro stile. Vabbè, insomma, qui siamo quasi, quasi in ambito la carta costa, ma la carta costa no, c'è di peggio. Vince Maria Corbi sulla Stampa, lo sapevo che doveva arrivare una pagina intera, una della Stampa, non mezza, non tre quarti, una della Stampa con tante foto dedicate alla nuova icona di stile. Chi è la nuova icona di stile? La moglie di George Clooney, Amal! Me ne frego! 24 mattino. Sono le 8 e 18 minuti in questo istante. Ben ritrovati da Alessandro Milan, cari ascoltatori. Con noi c'è il sindaco che in questo momento è mediaticamente più ricercato, più gettonato, diciamo così. Tutti vogliono sapere un po' la sua verità. È il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che saluto. Ben ritrovato, sindaco. Eccoci. Buongiorno, grazie a lei, un saluto agli ascoltatori. Allora, è arrivata la condanna in primo grado a 1 anno e 3 mesi, sospensione condizionale della pena, non menzione sul casellario giudiziale, ma per una vicenda che la riguardava quando lei ancora era magistrato, c'è però questa vicenda della legge Severino che prevede la sospensione dall'incarico anche per una condanna in primo grado. Ma intanto le chiedo, la legge Severino lei la giudica giusta, cioè come principio quello che sancisce? Una breve premessa, peccato che non ci riusciamo mai a sentire approfonditamente sulla mia amata Napoli e sulle tante cose che stiamo cercando di fare. Detto questo, la legge Severino ha delle cose giuste, sicuramente, ha delle cose da rivedere. Poi, per esempio, nella mia vicenda, a mio avviso, ci sono diversi profili di inapplicabilità. Il principio complessivamente della legge non è negativo e si va nella direzione giusta. E allora perché lei non accetta la sospensione, dovesse mai arrivare? Perché lei ha detto farò ricorso se dovesse arrivare. Io dico una cosa molto diversa. Mi stanno chiedendo da più parti, tutte le forze politiche a me avversarie, che non accettano che stiamo cambiando Napoli con le mani pulite, di dimettermi. E quindi la dimissione è una cosa diversa. Uno si dimette se ha rubato. Qua mi fanno pagare semplicemente perché ho fatto il mio dovere da magistrato indagato nei confronti dei poteri criminali che non sono solo quelli politici. Detto questo, se la sospensione il prefetto la applica nella sua autonomia, non è un atto automatico e dovuto, siccome a mio avviso nel caso mio preciso per una serie di motivi tecnici non si applica, farò ricorso. Poi la sospensione, come tutti sanno, ma lo specifico, è a tempo, perché poi c'è il processo d'appello, tra l'altro la mia vicenda a fine anno si prescrive e quindi la sospensione poi decade automaticamente e, come ho detto, un periodo di sospensione anche nella malaugurata ipotesi che va tutto male, che dura 3-4 mesi e ha solo effetti formali, ma io continuo a essere il sindaco di Napoli. Dice, ha fatto questa battuta, c'è il caffè sospeso a Napoli, ci sarà anche il sindaco sospeso. La spiego. Cioè, nel senso che il vice sindaco avrà il ruolo formale, ma io continuo a essere il sindaco, vuol dire che sarò un po' meno a Palazzo San Giacomo, che è la sede del comune, starò più, che poi mi è più congeniale, che amo di più, tra la gente, tra le persone, in strada. Però sindaco, no, però molti hanno fatto notare, lo so che questa forse lei la reputerà l'offesa più grave, che lei parla un po' come Berlusconi quando viene condannato, chiaro che le tipologie di reati sono diverse, ma è che subito attacca i giudici, attacca chi l'ha condannata, insomma, come mai? L'offesa più grande l'ho subita da alcuni magistrati e da pezzi di Stato che da 10 anni, solo per aver fatto il mio dovere, mi fanno pagare, e di questo ho documentato tutto. Che mi si paragoni a Berlusconi o a un altro non regge, perché facciamo un'ipotesi, togliendo Berlusconi, se un mafioso conclamato viene condannato ha diritto di criticare la sentenza, se un innocente viene condannato ha diritto di criticare la sentenza, non vuol dire che l'innocente e il mafioso conclamato sono la stessa cosa, ogni storia è una storia a sé. Io rispetto la legge, rispetto le sentenze, ma se le sentenze sono intrise di ingiustizia o se in alcuni casi addirittura mi sono trovato di fronte a magistrati corrotti, non è questo il caso, e l'ho dimostrato, io che sono un uomo delle istituzioni ho il diritto dovere di denunciarlo, altrimenti facciamo solo chiacchiere. Io invece sono andato all'autorità giudiziaria, le ho giudiziate e le ho denunciate, e questa cosa non me l'hanno mai perdonata, mai, da quando mi hanno fatto il processo disciplinare presieduto da Nicola Mancino, che oggi è imputato nella trattativa tra pezzi di Stato e Cosa Nostra, a seguire. Quindi che devo fare? Io continuo a andare avanti con la mia coscienza e so di aver fatto le cose giuste, il mio dovere. Allora, ci sono, lei ha twittato questa frase: ci sono pezzi di Stato collusi che vanno abbattuti e servitori dello Stato di cui essere fieri. Però a me interessa che lei ci faccia i nomi e cognomi di pezzi di Stato collusi, cioè, perché dirlo così e non dire a chi si riferisce, ha ragione, infatti la differenza tra il dire e il denunciare io l'ho fatta, alcuni nomi sono ben noti, ne faccio alcuni che sono stati più micidiali, i capi degli uffici, il procuratore generale, il procuratore della Repubblica, il procuratore aggiunto che mi sottrassero l'inchiesta, sono sotto processo per corruzione in atti giudiziari, uno di questi fu quello che trasmise gli atti a Roma, che non era competente, sui magistrati di Catanzaro. Achille Toro, poi coinvolto nell'inchiesta sul G8, iniziò questa indagine, io vengo condannato, questo se mi consente lo vorrei spiegare, perché nel pieno dell'inchiesta, un'inchiesta delicatissima, poi mi è stata avocata illecitamente e, come dire, è stata per quel motivo interrotta, un consulente tecnico, un vicequestore della Polizia di Stato, uno dei più bravi che c'erano in Italia, mi chiede di acquisire delle utenze che erano in contatto con personaggi coinvolti in fatti gravissimi, nelle utenze, vicino alle utenze non stava scritto di chi erano. Appena lui scopre che si trattava di parlamentari, sì, me le illustra, io fermo tutto, inizio la pratica per l'autorizzazione al Parlamento e mi sottraggono l'inchiesta. Cioè, un paese che non si preoccupa degli accusati, gli accusati diventano accusatori, gli accusatori accusati. Io francamente, guardi, poi se io devo star zitto per quello che ho subito, allora a quel punto mi devo ritirare a vita privata. Però se rimango un uomo delle istituzioni, io ho il diritto dovere di denunciare questa schifezza. Ma lei ha il diritto di, se si sente, diciamo, attaccato, di fare, no, appunto quello. Io penso di aver subito un'ingiustizia incredibile dallo Stato a cui ho prestato giuramento e fedeltà alla Costituzione, una cosa diversa. Però mi scusi, alcuni gliela fanno pagare, questo lei sta dicendo. C'è una sentenza, se il prefetto poi applica la sospensione, lei a quel punto dice farò ricorso anche, quindi andrà contro una decisione anche del prefetto, cioè sembra che i nemici si stiano sempre più moltiplicando nei suoi confronti, no? Che se uno ritiene che sta in un ordinamento in cui ci sono le impugnazioni, non è che se uno impugna una sentenza e contro la sentenza, allora che ci stanno a fare i 3 gradi di giudizio? Se uno fa appello non vuol dire che è contro lo Stato, altrimenti l'appello è una legge dello Stato, non sarebbe previsto, quindi non è che se uno impugna vuol dire contro il prefetto, io non è che metto tutti sullo stesso piano, io non ho mai detto le istituzioni in quanto tali sono marce, ho detto che purtroppo la corruzione è penetrata in modo invasiva nelle istituzioni, è talmente penetrata che la condiziona fortemente, ma non mi sfugge il dato che all'interno delle istituzioni ci sono anche persone per bene, altrimenti io l'ho detto, mi avrei abbandonato le istituzioni e avrei fatto altre scelte. Questo sì. Sindaco, sa che domani arriva il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a Napoli. Oggi raccontano alcuni giornali, Il Messaggero per la precisione, che non parteciperà a una cena ufficiale a Napoli, secondo alcuni anche per non incontrarla. Lei l'ha anche attaccato, credo, nei giorni scorsi. Ha detto dal capo dello Stato, il capo dello Stato è stato protagonista di ingiustizie profonde nei miei confronti, cioè? Allora, chiariamo, il capo dello Stato era già previsto che non partecipasse a quella cena, dove tra l'altro era già previsto che non partecipassi nemmeno io, ma per ragioni che queste erano cose già decise prima della sentenza di condanna. Il ragionamento che ho fatto qualche giorno fa su Napolitano è ben diverso, perché quando mi si diceva che io mi ero isolato dalle istituzioni, io ho detto no, è esattamente il contrario. Ho fatto l'esempio di Napolitano, che pur ritenendo da, quando ero magistrato, di aver subito dal presidente una forte ingiustizia, perché lui presiedeva il CSM che poi mi ha trasferito, e pur essendomi appellato più volte a lui per non lasciarmi isolato in Calabria, e non ha ritenuto di raccogliere il mio appello, da sindaco ho superato questa sofferenza personale, la più grande, perché avermi strappato la toga per me è la sofferenza più grande dopo i miei affetti carissimi. Nonostante questo ho intrapreso relazioni istituzionali da sindaco col Presidente della Repubblica, quindi ho fatto un ragionamento. E ora, invece i rapporti come sono? Ma ora i rapporti continueranno a essere istituzionali, Milan. Io continuo a fare il sindaco e sono certo che lo farò fino al 2016, perché io sono convinto che nella mia città, che è la cosa che più mi interessa, stiamo provando a dimostrare che si può governare anche fuori da un sistema di potere. Questo dà molto fastidio, altrimenti non si spiega perché tutti i miei avversari in questo momento si accaniscono per provocare le mie dimissioni. Quindi io col Presidente della Repubblica e con tutte le istituzioni continuo a fare quello che ho fatto finora, collaborazione leale ma anche libertà, perché io sono un uomo libero e dirò sempre quello che penso. Si ricandiderà a sindaco di Napoli? Finita, già pensato a questo? Perché allora, io sono dimagrito 12 kg da quando faccio il sindaco. Sindaco di Napoli credo sia una delle avventure più affascinanti e più difficili. Se la salute mi accompagna e la gente, la maggioranza della gente me lo chiede, come io spero e penso, non escludo assolutamente, anzi se oggi dovessi decidere, io sono molto motivato di continuare in questa avventura, di dare voce a chi non ha potere nella mia città. Mi dica l'ultima cosa, ma si sente, cioè si sente, le sente anche lei le persone, non so, anche Raffaele Cantone, che è un suo amico, le ha detto, le ha consigliato di adeguarsi alla sentenza, insomma si sente un po' un uomo solo contro tutti, nel senso che quando i nemici o le persone anche a lei vicine le dicono guarda che però adesso bisogna adeguarsi, forse uno dice beh forse sto esagerando della mia reazione. Ma che significa adeguarsi? Io non aspetto la legge. La legge mi ha condannato, io faccio appello. A me quello che fa piacere, che sto ricevendo da parte della gente comune, che poi è quella che mi è stata sempre vicino, mi ha capito e mi ha dato grande forza, attestati di grandissimo affetto, simpatia, incoraggiamento, e mi dicono di andare avanti. C'è effettivamente una forte dicotomia tra il potere che mi vuole fermare e la gente che mi dice vai avanti. Raffaele, poi chiudo su questo, è un amico, abbiamo sempre avuto rapporti forti, anche professionali. C'è una piccola differenza, che Raffaele non ha mai subito nella sua esperienza di magistrato la violenza istituzionale che ho subito io, e quindi chiedo a Raffaele di mettersi nei miei panni, come dire, di andare avanti nel suo lavoro, che è quello di Presidente dell'Autorità contro la corruzione. Diciamo che nel Paese c'è molto bisogno di contrasto alla corruzione, perché finora, e qua mi assumo la responsabilità di quello che dico, nonostante le nomine, i cambiamenti, le riforme, Raffaele Cantone e quant'altro, la corruzione continua a essere dilagante. Quindi di fronte a questo coro, che tranne Obama e Putin contro di me sono francamente intervenuti tutti, io mi affido alla gente comune, quella che poi mi ha votato 3 anni fa, che mi sta dando grande forza. Vabbè, staremo a vedere, la prossima volta ci sentiremo a parlare un po' di Napoli, a questo speriamo, punto. Esatto. È un impegno che ha preso. La cronaca è questa, la cronaca è questa. Grazie sindaco per essere stato con noi, Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, e staremo a vedere, ovviamente poi ci saranno i tempi tecnici, quando arriverà la notifica della condanna in primo grado al prefetto. Il prefetto Musolino sarà colui che può, non è un automatismo, ma potrà decidere di sospendere il sindaco, che però ci ha detto in quel caso farei ricorso perché sono convinto di aver subito un'ingiustizia. Allora andiamo a sentire qualche minuto la pubblicità, tra 3 minuti riprendiamo. Da che cosa invece cambiamo tema, se volete intervenire sull'altro tema, se volete dire anche la vostra su De Magistris, vabbè, i microfoni sono aperti all'800 24 00 24, ma parleremo subito dopo del rischio elevatissimo, queste sono le parole del ministro Alfano che ascolteremo tra poco, per quel che riguarda l'Italia, perché facciamo parte della coalizione che sta attaccando l'ISIS, lo Stato Islamico in Siria, e si è saputo che almeno una 50 di jihadisti che attualmente combattono in Siria sono transitati dal nostro paese. L'allerta per l'Italia è elevato, anzi elevatissimo, pur in assenza di una minaccia specifica, ma lo è perché l'Italia fa parte di quella grande comunità occidentale che contrasta il terrorismo, perché è la sede della cristianità, perché ha fatto delle scelte importanti in Parlamento anche negli ultimi insomma mesi. Alfano dice, visto che facciamo parte di quella coalizione che sta facendo anche delle operazioni militari nei confronti dello Stato Islamico insediato tra la Siria ma anche l'Iraq, il rischio è elevatissimo. Ha dato anche un numero, c'è un numero di quante persone e quanti jihadisti attualmente che stanno combattendo in quella zona e che sono transitati per l'Italia. Noi abbiamo fatto un monitoraggio che teniamo sempre aggiornato e che ci diceva un numero di 48 in un qualche modo legati a vario titolo all'Italia in termini di transito o in termini di passaggi. Insomma, 48 persone che sono transitate da noi o che hanno avuto a che fare con l'Italia, alcune sono partite. Abbiamo raccontato in passato il caso di Ibrahim Del Nevo, abbiamo ospitato varie volte il padre di Del Nevo che è andato a morire in Siria. Voglio salutare, parliamo di questo tema, il generale Vincenzo Camporini che è vicepresidente dell'Istituto Affari Internazionali, è stato capo di Stato Maggiore della Difesa. Buongiorno generale. Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta. Saluto anche Lorenzo Vidino, è un ritorno, esperto di terrorismo all'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buongiorno Vidino, eccoci qui. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, intanto questo numero, Vidino, come esce fuori come lo dobbiamo interpretare, soprattutto con la dovuta cautela, con preoccupazione? Che significa che 48 persone sono transitate o hanno a che fare con l'Italia? Ma sono soggetti che appunto abbiamo dei cittadini, come lei ha citato il caso Del Nevo, abbiamo soggetti che hanno vissuto a lungo nel nostro paese, si sa ad esempio del caso di quei due soggetti di origine balcanica, però residenti a lungo in Veneto, che sono morti combattendo in Siria. Abbiamo poi altri soggetti che sono stati, come diceva Alfano, più di passaggio, che magari sono stati residenti per qualche mese, alcuni sono rientrati in altri paesi europei dei quali sono cittadini passando dall'Italia. È un numero comunque basso rispetto agli altri paesi. Olanda ha parlato di 1000 francesi in Siria e in Iraq, in Germania, in Olanda si parla di 300-400 militanti. L'Italia ha un numero più basso. C'è un livello di attenzione importante da parte delle autorità, è chiaro che le ragioni date dal ministro Alfano per temere un attentato sono logiche. Sono logiche. C'è da dire una questione che io vorrei capire dal generale Camporini, se ci può aiutare a spiegare agli ascoltatori se stiamo dal punto di vista militare, dal punto di vista strategico, se stiamo facendo la cosa giusta. So che la domanda è molto molto complicata, nel senso che complicata può essere la risposta. Generale, stiamo facendo dei raid militari, spesso si dice bisogna anche avere una strategia politica, inoltre bisogna dire forse raid militari dall'alto non bastano, bisognerebbe avere una strategia sul terreno. Come ci stiamo comportando? Perché sa, molti dicono stiamo agevolando la nascita di ulteriori tensioni nei nostri confronti. Io trovo che stiamo più che altro reagendo a qualcosa che sta succedendo in un modo che non è assolutamente proattivo. Quello che io critico, ma lo critico da sempre, è il fatto di non avere un progetto politico di lungo respiro che in qualche modo possa indirizzare l'impiego delle risorse, siano queste militari, civili, diplomatiche e quant'altro. Il problema secondo me sta lì, in effetti anche in queste circostanze c'è stata la reazione a un'avanzata che sembrava inarrestabile di questa nuova entità, politica, anche politica territoriale, questa è la vera novità dell'ISIS o dell'ISIL o dell'IS, come lo si voglia chiamare. Il problema quindi è che cosa vogliamo ottenere alla fine. Se vogliamo ottenere che il governo centrale dell'Iraq riprenda il controllo di tutto il suo territorio, evitando appunto l'insediamento di questi nidi di terroristi, tali sono, allora dobbiamo assumere un certo comportamento. Se invece questo riteniamo che non sia più funzionale a una stabilità dell'aria, dobbiamo dircelo chiaramente e identificare quello che è il nuovo obiettivo. Dal punto di vista strettamente militare è chiaro che le operazioni aeree sono funzionali a operazioni sul terreno. È vero che nel passato ci sono state situazioni di conflitto risolte soltanto dal mezzo aereo. Noi siamo entrati in Kosovo in ambiente permissivo perché con la campagna aerea avevamo convinto Milosevic a non opporsi. Qui siamo in una situazione molto diversa. Ma questo vuol dire che si prelude a un intervento via terra di qualche tipo? Cioè dobbiamo tornare, è la domanda che faccio sempre quando parliamo di questo tema, dovremmo tornare o pensare di dover tornare anche militarmente sul campo in Iraq? No, questo vuol semplicemente dire che ci devono essere delle truppe sul terreno. Chi le mette è un altro discorso. Io faccio riferimento a quanto accaduto all'inizio della campagna in Afghanistan, stiamo parlando del tardo autunno del 2001, quando ci fu la disfatta dei talebani, del governo di Kabul, allora retto appunto dai talebani. Che cosa è accaduto in quella circostanza? È accaduto che le forze occidentali, gli Stati Uniti in particolare, hanno sostenuto dall'aria la spinta che sul terreno veniva attuata dall'Alleanza del Nord. Quindi un'attenta pianificazione e coordinazione con forze terrestri locali può sicuramente portare a una soluzione positiva. Sì. Ben venga quindi l'appoggio ai peshmerga, ben venga quindi l'appoggio alle truppe irachene sul terreno che possono essere appunto coloro che fanno il controllo del territorio. Però, generale Camporini, quando c'è stato il primo raid, Obama ha detto al mondo: siamo intervenuti perché abbiamo sventato un nuovo 11 settembre. Ora, se un presidente e capo delle forze armate del suo paese dice una frase del genere, immagino che avrà delle informazioni di intelligence ben concrete su quello che abbiamo fatto. Cioè, come dire, non stiamo distruggendo, ma abbiamo sventato un nuovo 11 settembre. Cioè, è questa la strategia per farlo? Non mi permetterei mai di commentare le parole di un presidente degli Stati Uniti. Io sto ai fatti noti, non ho un servizio intelligence a mia disposizione che mi fornisca queste informazioni. La realtà è che la reazione americana è stata una reazione dal punto di vista tecnico molto ondivaga. Quando Obama ha lanciato i primi raid, io l'ho commentato pubblicamente, non ha fatto altro che lanciare dei punti di spillo, perché i primi interventi sono stati veramente qualcosa di simbolico. Adesso le cose stanno cambiando perché si è in qualche modo consolidato, o si va consolidando una coalizione che comporta l'impiego di reparti e dell'area in cui si svolgono le operazioni, cioè la partecipazione dell'Arabia Saudita, del Qatar, di tutti questi paesi è essenziale. Perché? Perché in qualche modo riconduce a una ownership araba di questo conflitto arabo, che in qualche modo ci vede come ostaggio. Io vorrei tornare per un attimo a Lorenzo Vidino. Giustamente arriva un ascoltatore, un messaggio di un ascoltatore che pone una domanda banale se si vuole, ma anche giusta. Tante volte nelle domande più semplici c'è anche un pizzico di verità, e cioè: ma davvero non siamo in grado di fermare le persone che nelle nostre società crescono, magari alcuni si convertono, comunque sposano un'ideologia e poi partono e vanno a fare la guerra santa? Cioè, dove sono i servizi di intelligence per non intercettarli prima? Prima di tutto è difficile chiaramente sapere processi interni di radicalizzazione. I servizi possono, e lo fanno, monitorare ad esempio quello che succede su internet, monitorare certi ambienti, moschee o comunque ambienti radicali noti. Però se ci sono dei processi di radicalizzazione individuale, chiaramente possono essere colti. Secondo, il radicalizzarsi, lo sposare certe ideologie e perfino il partire per certi scenari, quando la Siria e l'Iraq, non è di per sé un reato. Il ministro Alfano se ne sta parlando chiaramente, ma se io oggi parto e vado in Siria non commetto nessun reato. L'unica cosa per cui potrei essere arrestato è se nel caso in cui ci siano delle prove chiaramente solide da portare davanti a un giudice, che io mi sto unendo a un gruppo terroristico. Sì, si sta pensando, si sta pensando di mettere anche come reato quello appunto di considerare reato il combattere una battaglia, una guerra in un paese che non è il proprio paese di provenienza. Però chiaramente questo si può sapere solo nel momento in cui uno va in quel paese e lo si pesca mentre sta facendo sta combattendo una guerra. Prima no. Ci sono delle enormi difficoltà che sono legate chiaramente a una protezione di diritti fondamentali, chiaramente qui è il solito bilanciamento rispetto dei diritti individuali e bisogni della sicurezza dall'altro, un dibattito che abbiamo dall'11 settembre, è chiaro che ci sono dei limiti a quello che lo Stato può fare, ci sono molte situazioni in cui i servizi, l'antiterrorismo sanno di certe dinamiche, ma da un punto di vista giuridico non possono fare niente. La legge italiana per esempio punisce il reclutatore ma non il reclutato. Effettivamente si sta studiando anche eventuale modifica da quel punto di vista, è la seconda modifica che si vuole mettere in campo. Sentirei però come ascoltatore all'800240024 Fabio da Vicenza ci chiama. Fabio, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, mi sente? Benissimo, sì. Buongiorno a voi. Volevo intervenire sostanzialmente sull'ISIS e su due questioni. Il generale che avete intervistato prima, che come tutti i generali è un tecnico e parla in maniera tecnica delle questioni, ha detto due cose molto interessanti. La necessità dell'intervento di terra. Gli unici che possono intervenire a terra sostanzialmente sono i Peshmerga. I quali Peshmerga sono curdi, non hanno alcun interesse ad entrare nel triangolo peggiore perché non è il loro territorio, sono lontani. Quindi non c'è nessuna possibilità che possano mai intervenire di terra, quindi bisognerà solo bombardarli dall'aria. La seconda cosa, quando sento accostare ISIS all'11 settembre la possibilità di un ulteriore attacco del genere, a me viene freddo, perché bisogna ricordarsi due cose. Uno, l'ISIS è un'invenzione del Qatar e degli Stati Uniti. Sono quattro pecorari la cui capacità militare è zero. Se si manda un battaglione israeliano in 15 giorni li uccidono tutti quanti, che sono stati armati, finanziati, organizzati logisticamente da infiltrati USA e da infiltrati del Qatar, i quali li hanno sovvenzionati. Questi sono atti del Senato americano, non sono invenzioni di Fabio Castellucci, di cui ha parlato Hillary Clinton, di cui ha parlato il figlio del senatore, quello che si candidò alle presidenziali, e lo ha apertamente accusato gli Stati Uniti in maniera diretta. Guardi, quindi quando sento accostarlo all'11 settembre, a me viene freddo, perché l'11 settembre, ricordiamocelo bene, è stato un inside job degli Stati Uniti. Era lì che infatti immaginavo che lei, perché il suo ragionamento era tutto, però insomma, se lei crede che sia stato, si siano tirati giù le torri gemelle, ripeto, come molte persone nel mondo, non è che come molte persone nel mondo, però non è il tema della puntata adesso, non andiamo all'11 settembre del 2001. Siamo qui 24 mattina. Siamo qui allora con Lorenzo Vidino e il generale Vincenzo Camporini. Generale, non so se vuole il commento che ha fatto Fabio da Vicenza, non so se vuole cimentarsi anche sul cosiddetto inside job per quel che riguarda l'11 settembre, cioè traduco per tutti se le sono fatti da sole l'attentato. Le altre considerazioni erano anche interessanti sul finanziamento dell'ISIS e sulla necessità di intervenire via terra utilizzando i Peshmerga. Io sono sempre stato assolutamente scettico, c'è sempre qualcuno che cerca di dare la colpa a qualcun altro, trovo che siano assolutamente fuorvianti, prive di base logica, ma sicuramente ideologica e basta. Per quanto concerne il discorso dell'impiego dei Peshmerga, è vero quello che dice l'ascoltatore, che i Peshmerga hanno un interesse al loro territorio e non hanno interesse più ampio. Quello che però è interessante notare è che i Peshmerga, come espressione della nazione curda, considerano il loro territorio a prescindere da quelli che sono gli attuali confini statuali. Questo può creare dei problemi nel futuro e è importante che ci si ragioni già politicamente fin d'ora ai massimi livelli. È chiaro però che ci sono anche altre forze sul terreno che possono agire, come ad esempio l'esercito iracheno, che è opportunamente sostenuto, adeguatamente equipaggiato come è, potrebbe nel futuro non essere più quella sorta di panetto di burro attraversato dal coltello rovente che è stato nei primi giorni dei combattimenti. E allora io andrei a sentire anche Domenico da Roma. Ascoltatore Domenico, buongiorno. Buongiorno, allora molto rapidamente, la prima cosa è che sono stato in Siria nel 2011 e visitandole, girando nel lungo e largo, mi sono reso conto che questa soprattutto è una guerra di religione, è stata detta, cioè in Siria in tutti i modi Assad è stato agli Hezbollah, all'Iran che erano i grandi eroi, e a parte l'America, il Qatar, l'Arabia Saudita erano visti dai siriani in modo molto, molto negativo. Quindi fondamentalmente loro una guerra hanno avuto, sì, guerre di religione, però non come le abbiamo avute noi europei. Non hanno avuto la guerra di 30 anni, non hanno vissuto, diciamo, un periodo in cui dopo quel bagno di sangue si è diventati tutti più tolleranti. Quindi sì, di base c'è un conflitto che loro non hanno avuto nella misura in cui. E quindi noi cosa dovremmo fare come Occidente? Noi, ha detto bene il generale Campurini, l'altra considerazione che volevo fare, noi abbiamo una strategia, noi abbiamo fatto degli interventi a partire quello dopo la prima guerra mondiale, ridisegnando i confini senza tener conto delle loro specificità, ma senza soprattutto avere noi un'idea chiara di quello che sono, diciamo, gli obiettivi del nostro interesse. No, ma questo è chiaro, cioè nel momento in cui, come mi scrive l'ascoltatore, qual è la nostra politica estera verso il Medio Oriente? Non so, giro la domanda a Lorenzo Vidino, ma nessuna, cioè nel senso, o meglio, ondivaga forse, incerta, poco chiara. Vidino, questo è poi il problema, cioè una mancanza, uno può fare tutte le battaglie, le campagne militari che vuole, ma se noi aiutiamo i Peshmerga, siamo pronti a sapere che poi i Peshmerga ci chiedono legittimamente, dal loro punto di vista, di volere uno Stato curdo? No, ma chiaramente condivido quello che ha detto il generale e gli ascoltatori, che manca una strategia di lungo respiro. È una politica, la nostra, come quella di tutti i paesi occidentali, America inclusa, che guarda al domani, forse al dopodomani, ma non più in là. Se uno supporta i Peshmerga, è chiaro, possono essere utili nel breve, ma poi in un ipotetico Iraq post-ISIS, come vengono divisi i vari territori ora sotto l'ISIS tra le milizie sciite, tra il governo centrale iracheno, tra i curdi, un ipotetico Stato curdo, quale sarebbe la reazione della Turchia? Ci sono delle dinamiche enormi nella regione per le quali noi non abbiamo delle risposte. Ci inseriamo in dei vari conflitti di enorme respiro in questa regione, uno quello tra sunniti e sciiti, l'altro quello all'interno all'Islam sunnita, tra forze più laiche e forze islamiste. Chiaramente questi due conflitti poi fanno parte di giochi di potere tra vari paesi, dinamiche nelle quali noi siamo degli spettatori, ne subiamo le conseguenze e non abbiamo una politica concreta. Ecco, però nel subire le conseguenze, abbiamo 30 secondi per chiudere, Vidino, c'è il timore, l'ascoltatore dice, ma no, quando sento dire che l'ISIS può fare un 11 settembre mi viene da ridere, visto che militarmente sono a zero. C'è però questo timore, perché si legge l'ISIS vuole attaccare America, Francia, aeroporti, metro? Sì. Intanto il piano di cui Obama parlava, chiaramente come diceva il generale, dobbiamo prendere quello che dice il presidente per vero, non si trattava di un piano dell'ISIS ma di una costola di Al-Qaeda, il cosiddetto gruppo Khorasan, che è una costola di Al-Qaeda trapiantata dall'Afghanistan alla Siria, quindi non è in realtà gruppo rivale dell'ISIS ed sarebbe stato quello il gruppo che pianificava qualcosa in Occidente. Per quanto riguarda l'ISIS abbiamo le prime avvisaglie di attacchi in Occidente, ci ricordiamo quello di Bruxelles lo scorso maggio, in cui un reduce francese della Siria, dopo aver combattuto un anno con ISIS, è andato al museo ebraico e ha sparato a Bruxelles, ha sparato e ha ucciso 4 persone. Cominciamo ad avere avvisagli di questo tipo di attacchi, certo, amatoriali. Quindi diciamo che il timore, l'allerta, è bene tenerla alta. Io mi fermo qui, ringrazio Lorenzo Vidino, ringrazio il generale Vincenzo Camporini per essere stati con noi e con Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni in redazione e il nostro Pietro La Corte oggi in regia. Vi diamo appuntamento a domani 6:30 puntuali con 24 mattino.